tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale. Scandalo del presidente leghista Filo Crocifissi Lombardo. Camici appaltati al cognato, finta donazione e conti esteri. Da mesi non ne azzecca una. Dal quotidiano Il Giorno un articolo su Charlie Hebdo, difende la libertà e lo Stato laico. Non solo non è reato, ma non è affatto una scelta politicamente inopportuna la decisione di ripubblicare le caricature anticlericali sulla prima pagina di Charlie Hebdo. È un atto doveroso di militanza laica, un gesto in difesa della libertà di stampa, un monito per ricordare agli integralisti di ogni bordo che lo Stato viene prima della Chiesa. A proposito dei preti pedofili, ricordiamo l'esistenza di questo sito Bishop Accountability con la Y.org sulle responsabilità clericali pedofile. Abbiamo un database di migliaia di preti, frati e vescovi pedofili americani, ma anche argentini. Fulmine anticlericale colpisce il campanile del santuario di Garbagnate Milanese. Completamente fuori uso la torre e zittite le campane. Il sito del Vaticano sotto attacco degli hacker cinesi. Una insegnante di religione di Rho, nota per il suo impegno sociale, è finita su tutti i giornali. L'ex sindaco di Rho, questa insegnante di religione, paga caro gli insulti a un noto esponente politico. Rho, Paola Pessina, si dimette da vicepresidente della Fondazione Cariplo, cassa di risparmio delle province lombarde, dopo il post di schermo contro un politico, le famose diffamazioni clericali. Buona notizia da Sondrio. Le salesiane di Don Bosco dicono addio alla città alpina. La città adesso è più libera. Chiusa la loro scuola dell'infanzia per mancanza di iscritti. Dal Giorno, cacciato dalla RAI per uno sketch. Si ricorda la figura di Tognazzi, che fu cacciato dalla RAI per aver fatto uno sketch contro il Presidente della Repubblica, Gronchi, il democristiano. E dal sito dell'UAR ci segnala 1 settembre 2020, l'amministrazione filoclericale di Massa Martana Perugia censura la rappresentazione dello spettacolo anticlericale antireligioso Mistero Buffo di Dario Fo. Buona notizia dalla Francia, dove due preti si sono suicidati in pochi giorni. Emozione nella chiesa francese dopo due suicidi di preti. In tre giorni due sacerdoti cinquantenni si sono suicidati in Francia per ragioni apparentemente molto diverse. Uno togolese era incardinato nella diocesi di Langres, l'altro era membro del consiglio episcopale della diocesi di Metz. 21 agosto 2020, Don Jacques Amouzou, diocesi di Limoges, si suicida con mezzi imprecisati. Era stato accusato di molestie sessuali. Lascia una lettera. 23 agosto 2020, Don Thierry Min, diocesi di Metz, si suicida con mezzi imprecisati. Nessuna lettera, nessun testimone. Trombato il clerico fascista Formigoni, che era agli arresti domiciliari per le colossali ruberie fatte quando era presidente della regione. Voleva uscire a fare propaganda politica, ma bocciato dal giudice. Padre e madre ammazzano il figlio neonato. Evidentemente siamo in presenza di un infanticidio di matrice clericale indiretta, in quanto in Italia è legale l'aborto. Quindi se volevano potevano fare l'aborto in base alla legge 194 se non volevano sto bambino. Ma per non incorrere nella scomunica hanno preferito fare questo infanticidio cercando di nascondere il fatto, ma complicanze li hanno portati all'ospedale e quindi è saltato fuori tutto. Sulla morte apparente di Gesù Cristo, che secondo i preti sarebbe stato crocifisso, morì e resuscitò, in realtà ho raccolto molti casi di morte apparente. Sul giallo del 16 settembre, donna dichiarata morta, le pompe funebri scoprono che è viva. È proprio il caso di scrivere, incredibile ma vero. È stata dichiarata morta ma era viva, a Detroit negli Stati Uniti. Fondi gonfiati per la Lega Filo Crocifissi, arrestati ben tre commercialisti della Lega. Dall'archivio storico del Corriere della Sera, Torino 1876. Condannato il prete che dirigeva il giornale L'Unità Cattolica per diffamazione contro un altro prete di Fossano Cuneo. 14 marzo 1878. Scandalo degli esami truccati all'Università di Napoli. Certo prete B. Punto, noto faccendiere, si faceva pagare 1.000 lire per ogni esame superato. Prete, se lo conosci, lo eviti. Quindi arrivederci alla prossima puntata. Per ogni comunicazione consultate il sito www.giordanobrunomi.wordpress.com, dove ci sono numerose notizie e recensioni e c'è un motore di ricerca. Saluti a tutti. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a chiudarti.